poto riposare, amore e coro, pensando a te e solo un momento, noi se si intristura prenda e oro, né in dispiacere o pensamento, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte e t'amo e t'amo e t'amo. Sì, essere possibile, d'angelo, sì, spirito invisibile, piccavo, s'asforma se furamo da echelu, su sole sosistendo se formavo, un mondo bellissimo protene, pro poter dispensare cada bene. Un mondo bellissimo protene, pro poter dispensare cada bene. No poto viver no, che l'amargura lontano dai te amato coro, anuda balezza bella natura, si uno stracuzzo su me un tesoro, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte t'amo e t'amo e t'amo, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte t'amo e t'amo e t'amo. Non posso riposare amore e coro, penso che a te sono momento, noi se si tristura prenda e oro, né dispiacere o pensamento, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte e t'amo e t'amo e t'amo, t'assicuro che a te sono bravo, cattamo forte e t'amo e t'amo e t'amo.